anche tu, mettici 9,40. Ti vedo da qua su, ti vedo come ti vedevo prima, però qua è aumentato parecchio. Rispetto a Carbonazzi, massimo segnale attaccato di 9,20, qua sei 9,40, te l'ho già letto. C'è tu 9,40, Roberto e Antonello 9,30, poi Gianni quando attacca 9,30, gli altri sono tutti 9,10, 9,15, 9,20, non di più. Ok, molto bene, vai già, fai girare per Mirko. Poi vabbè, lui è in linea d'aria più vicino a te, è normale, ce l'hai di fronte, qua. Avanti Mirko! GX2 ce l'ho sia io e anche Claudio come radio appunto da collezione. Non lo so, se vuoi sapere qualcosa fai le domande a Claudio che lui sicuramente la conosce meglio di me quella radio. Vai Mirko. Eccezionale, alla pari di un 140, non è un granché, comunque funziona bene, c'ha tutta la banda da 0 a 30 a sintonia continua, i watt sono 25 in AM e 100 in SSB, penso che insomma sia una radio eccezionale. Poi c'è una modifica che praticamente si fa, che ho fatto sia io che Claudio, che porti la potenza anche a 100 watt in AM e in FM, è eccezionale. Ecco, quanto te la stanno vendendo? Giacca, ma ho Mirko. 180. Prendila subito a 180 euro, prendila subito, una radio a 250 euro. Prendila subito, io l'ho pagata 200 diciamo, dai. Però sempre da un amico, amico. con la maiuscola, quindi altrimenti è vendibile anche a 250-300 euro. Quanto è il 140? Ha qualcosa in più del 140, preamplificatore d'antenna, selettore di canale completamente diverso, ha delle cosettine in più, ha delle cosettine in più, le memorie mi sembra che siano uguali, però è un bel ricevitore, ok? Questo è il quanto. Vai Gianni. Vabbè, ma il 140 lo puoi usare anche il 27, quello lì il 27 non è il top. E vuoi che te lo faccia sentire, beh, se non è il top? Ma io so che non va bene il 27, che non esce bene, poi fammelo sentire, dai. Allora io ce l'ho attaccato, dammi, allora questo, ecco qua, lo accendiamo, adesso comodo te lo faccio sentire, poi mi dici se non esce bene. È una cannonata 27, si tratta sempre di fare gli abbinamenti giusti, ok, gli abbinamenti giusti vuol dire sia microfono e soprattutto la modulazione, come me. Aspetta che, ecco qua, si è acceso, aspetta che comodo, allora, eccolo qua. Eccolo qua, e tieni conto che qua c'è l'Adonis M508, non c'è il suo microfono originale della Yaesu, è un microfono adattato, sempre un microfono buono, questo è l'Adonis. Ma la radio non mi piace tanto, ti devo essere sincero, mi piace più quella dell'MC60. Vabbè, è chiaro che questo è un adattamento, non è il suo microfono. Le 60 è con il K, questo è un microfono che puoi adattare sia al Kevode, sia alla Yaesu che alla Icom, però è un microfono professionale da 180 euro, non è un MB più 5, un MB più 4, tutto qua, capito? Il Mickey Gain tra l'altro è anche basso, quindi non è che... Però non mi dire che la modulazione, io a volte parlo con questo e nessuno mi dice niente, non se ne accorgono neanche. La modulazione è abbastanza presente, abbastanza buona. È chiaro che la timbrica, tu parli di timbrica, non è uguale a quella del 60, ma non è brutta, funziona molto bene in AM. Claudio. È nasina. Nasina, che usa di trattenere, abbassa un filtro, tocca che cosa, chissà radio. Claudio, come mi senti, nasino? Se non la devi modificare, è come ha fatto Claudio che l'ha modificata. No, non l'ho modificata io, non l'ha modificata un amico tecnico, no. Io l'ho mandata a fare dei lavori in continente, dove io insomma mando le radio, e mi hanno detto guarda che ci si risponde la potenza in M e FM, fagliela, adesso da 100 watt in AM, 100 in SSB, anche di più, 100 in AM. Allora Gianni, ti ricordo io il Mickey Gain ce l'ho a 1, Allora, ecco qua, adesso te l'ho messo a 2, cioè che cosa dobbiamo ascoltare? Non lo so. Aspettate un attimino, ma che è quello imbecille che sta mettendo la portante sempre? Vai, non lo vedo, vai. Ma vedi, c'è una portante, non lo so. E c'è una portante che ci fa l'innesco sotto, soprattutto quando parla Claudio e Milko. Beh, continuate, vi sto ascoltando, saluto a tutti comunque, riprendi. Giaffa Giulio, grazie dell'intervento, io non la sento. Sì, adesso l'ho messo a due, ce l'aveva uno nel Michigan della radio, ma penso che abbiamo già fatto le misurazioni un po' con tutti e non è male. È chiaro che come timbrica non è uguale al 60, è sempre un microfono però professionale con un tipo di radio diversa, tutto qua, però io mi sto ascoltando in cuffie e spinge parecchio. Pronto? Claudio, come è alzato il volume, hai migliorato di brutto con la radio, era troppo bassa. Oh, vedi bene, adesso l'ho messa a 2, se la metto a 2,5, però diciamo che va molto bene come radio. Io sto andando adesso con 30 watt di portante e 60 modulati, molto al 60, perlomeno con le prove che abbiamo fatto già va bene, però ti ripeto, è una radio completamente diversa, cioè, quando parliamo di Kenwood, parliamo di Kenwood completo, AM, FM, SSB, e non si discute per nessuno, qualsiasi Kenwood. Quando parliamo di Yaesui, come chiaro che sono delle radio un po' diverse per la M, però se sono abbinate bene c'è una possibilità di chiacchierare, insomma, a livelli inferiori rispetto al Kenwood, però è abbastanza buona, dai. Mirko, questo è il 757 GX2, abbinamento Adonis AM508, microfono a tavolo preamplificato, e niente, come vedi la radio funziona anche in AM. Ma questa è la portante che c'è, avanti se vuoi entrare invece a rompere le palle al prossimo. Ma questa è la portante, Giulio, questo col bip? Sì, questo qui ogni tanto fa ora, soprattutto quando parlo amico, è Claudio da Muro. Vabbè, dai, continuate, sono in ascolto. Non ho capito, siamo sempre al solito, non ho capito, spazio c'è, se volete entrare ben venga, mettete a disturbare, non ho capito, vabbè, manda le ciance, Gianni a telecambio. Gianni non riprende, avanti Claudio, riprendi. Thank you. due celle, molto bene. Vabbè, comunque sì, il prezzo è quello, poi io 250, insomma si può comprare a quel prezzo. 180 è un prezzo buono. Mio nuovo, lo sai, claro. Se lo serve dove arriva, è nuovo di pacca, nuovo. Ci mancava la maniglietta e siccome io conservo sempre tutto, mi sono ritrovato anche la maniglietta e gliel'ho messa, anzi me l'ha messa Franco perché ho dovuto modificare i fori, però non ci vede niente, perfetta, è nuova. Va bene, Gianni, vuoi riprendere? Se no riprendi tu, Mirko. Io ho cambiato il radio. No, volevo vedere come gli arriva Van Mirko con questa radio qua, col Cobra DX. Vediamo un pochettino, Mirko, come ti arrivo con questa di radio? Più basso o più forte? KK, dai, questo qui è il Cobra. Avanti, o Claudio Di Mulos, avanti, vediamo un pochettino da te come va questo. Quella grande, quella del VFO grande? No, allora se tu sollevi la radio all'altezza proprio della rotellina sotto, nel frontalino sotto c'è un buco, lì devi entrare il cacciavite e praticamente alleggerire il pistoncino del VFO. Saluto, dai, che devo andare. Ci sentiamo, ragazzi, statemi bene, grazie per il QSO e niente, alle prossime. Ciao! Sì, scusa già, è entrata mia moglie e mi ha distratto. Ciao già! Una buona serata, buon tutto, cordialità, grazie delle due chiacchiere, ci ascoltiamo alle prossimine, dai. Avanti, Cla. Ciao Mirko, ciao, un abbraccio, a presto, grazie a te per essere entrato, vai qua. Gappa, no, io adesso faccio scaldare un po' questa 757 perché è vero che risponde molto bene, la ricezione è ottima, già va bene così, dai. Poi magari commuto nuovamente al K. Va bene. Sì, Millone, gran bella radio, a me me l'aveva disintegrata al fulmine. se no a quest'ora ce l'avrei ancora avuta, perché l'unica radio mi piaceva veramente, enorme, grande, grande ricezione, grande in tutto, infatti lo chiamavano proprio il Millone, perché era la radio più grande che ha fatto la IAESU. Ciao. la gaffa. Sono messi a pulire i tombini, stanno pulendo con la con lo scavatore, perché tutto incasato, i beni di terra, marraci, di tutto quello. E per forza si disallagano i bici. Andiamo a dove trovare i fai di ferro? I tombini, le caratoie vanno pulite d'estate, dalle foglie, dalla terra, da tutto, capito? E tenerle pronte per l'inverno, per fare sì che l'acqua cammini. Ma se trova ostacoli, l'acqua si ferma e riempie i tombini e ne viene caduto, allora le frane si allagano, non c'è flusso d'acqua. Non ce n'è, capito? Vabbè, tutti riuscissero. C'è niente da fare, no? Tutte le città è la stessa cosa, ma Olbia è... con quel canale che c'è dentro la città è un casino. No, venuta la va, si viena sempre. Magari non sono riusciti mai a fare queste cose di migliori, di canale allargato, ma fanno un male a due passi, ma a noi riesce in canale all'ammare, un tubo manno, cazzo, mi viene sotto la zizzai, chi la zizzai, cazzo, fa in canale alla Contumbina, in canale alla Delta Mare. Forse la notte non c'è mai sta Olbia, forse la notte passa l'Urio che entra la Zidai, e quello quando è in piena, e via Aldo Moro non ci puoi passare, caro mio, sul cacinare Dio ci ha lavorato, ma sai che antinverre ha già baciato in Kivin, che c'è zona io, mamma mia come sto, esci via, quando piove va io, ero sempre allerta, come davano l'erta metti, allora era me a fuggì, aiù verso Santiago, aiù verso Molta Maria, e scendine, che ce l'hai detto che tu mai vivo la nave, andassini, aiù in pressa. Ecco, sì, vabbè, io ho lavorato un anno, so, e poi me ne sono deciso di fuggire. No, Olbia, a me non piace neanche abitarci. Oh, ci ho fatto un anno io in quella zona e poi a Sassari non ho mai lavorato. Ho lavorato sempre dalla Gallura, sono passato all'Anglona, perché ho fatto Olbia, poi ho fatto Perfu a Stempio e poi sono sceso verso Santa Marcovina, Valle d'Oria e lì ho finito, capito? Quindi l'Anglona è molto più tranquilla, anche se Valle d'Oria e Santa Maria Covina se... gli allagamenti sono all'ordine del giorno, però nelle campagne, capito? Sono le campagne troppo in pianura, le carciofaglie sono troppo in pianura, quindi quando fa piove molto si allagano, ed è un casino, però i paesi non la fa niente, assolutamente, un po' Badesi, perché c'è Trinità-Lagurto in alto, Badesi rimane sotto, Trinità-Lagurto rimane in alto, è tutto in farata, quindi butterei Badesi sopra nei Varaiosso, qualche allagamento c'era stato, ma niente di che, ma Olbia è una cosa allucinante, Olbia quando faceva tu devi fuggire, se si entra in Olbia che sta piovendo forte, ti conviene girare e tornare indietro, non vai ad entrare dentro Olbia, ma casino che non fai, mamma mia! Dimmi una cosa, Clau, com'è questa la radio? Buona, 5 perfetta, non sta spingendo molto ma è 5 perfetta. Perché ti segnale molto, allora 5 watt. Santiago 7, sì, buono. Ecco, aspetta, ok, vedi a vedere adesso com'è, è migliorato? 9, Santiago 9, Radio 5 sempre, non l'ha sporcata la radio. Ecco, sì, lo so, che lo sto facendo andare con 5 watt di ingresso. Buono, ma il K? No, negativo. È la cosa, con il presidente Vinco, con l'MC60. Vabbè, Radio 5, Santiago 9, si è passato da 7 a 9. Sì, funziona però. 747 funziona. Sì, da qui funziona. Io ho 747, 757. Chi ce l'ha GTE con 757? Non ho capito, scusa. No, detto, ce l'ho anche io quel lineare. Non so però se si chiama 747. Se fosse 747, sì. Quello grigio piccolino della GTE. No, questo è della Midland. Mamma mia della CTE, ma se vuoi, siamo venuti, finale a MOSFET, sì, va bene, è un centinaio di lattera, no, io ce l'ho dentro l'armadio, non lo uso, l'avevo attaccato una volta a provare col Galaxy, però l'ho staccato, funziona molto bene, un bel bene. Sì, sì, sì, mi l'ho attaccato stasera, ce l'avevo qua, sempre fermo. E... Sono le pesci che metto la... la cosa. Il rinco, a vedere come, come va, se funziona ancora. E ancora non dimmi. Chi è che vuole entrare? Chi è? Non so, l'hai visto blecco blecco, ma non entra mai. Anche quello che ci vedeva pure nella portante, anzi, non mi fa vedere né tu e l'altro. Sì, lascia stare, la ti sento lo stesso io. Sì, vabbè. Ma no, no, no, non deve essere di qua, deve essere di zona lontano, da Sassa. Oh, Giulia ha detto che disturbava parecchio, non lo so. A me mi arriva a livello agli olio, Santiago 5. Con questa radio con l'eco tutta amplificata, beh. Le bollichine ci avete, la frusciere già. Sì, la sono frusciata. Lo dico qua per la mamma, si chiama di fruscio. Se capita me ne prendo uno più consistente. Se trovo le mie 300, lo prendo a vedere. Quanto l'avevo dato io l'M300? Che fine hai fatto? Venduto direi. No, M300, no. 300 watt. Ah, il B300, io l'ho dato. L'ho dato, l'ho fatto proprio cambio con Franco. Gli ho dato, con Franco Carifolato il B300 che non lo usavo, lui le serviva di più per mettercelo in macchina. E io mi sono fatto la 747. Nuovo nuovo, funziona bene. Vabbè, quello è più forte, c'ha più watt. Ecco. No, la 300 la ce l'ho, ne ho tre, ne ho. E io allora gli andavo. Allora già va bene, no, io con i baracchini non ho un microfono da palmo, forse uno ne ho, sì, lo stesso, ne ho uno a rotellina che funziona molto bene, lo uso con l'Elbex. Poi ce ne ho un altro, un F12 mi sembra, ma l'ha fatto Massimiliano, un F10, boh, sono tutti dentro il cassetto. Ma non ne uso fra, lui, lascia verde. Io tratto liscio e buh. No, qui mi ho abbinato l'RC60, più ci ho abbinato il coso, come si chiama, le Baby Q5, ci ho abbinato a questa radio. E basta, però microfoni palmari non ne uso. Ma cosa gli hai messo? Le batterie nel 60? Sì, se no non esce. La stessa cosa che ho detto a come si chiama lì a quello di oggi, la Francesco, se non metti le pile non amplifica, è un casino, capito? È un casino. Vabbè. Ma sai cosa ci va bene lì mi? Quello che sto usando, lo uso io con l'altra radio, la Donis, la M508, lo sai quanto spinge col presidente Lincoln? E più del 60, perché oltre a essere preamplificato come il 60, sotto c'è la rotellina, capito? C'è la rotellina per aumentare l'amplificazione, come l'MC85. Capo. Sì, vabbè, ma non è cosa di rivedere. Questo non è, vabbè, spingerà un po' di più, perché c'è più amplificazione. Però questo almeno se rimane sempre pulita la modulazione. No, va bene, anche quello là non distorce, no? È come il 60, uguale, preciso identico. Però si assomiglia più all'80, 85, capita, flessibile. È molto bello come microfono. C'ha la serie batterie, lo stesso, come il 60. Le puoi mettere, adesso vabbè non ce n'è perché è alimentato dalla radio. Però se lo cambi, lo metti su un'altra radio, puoi mettere le batterie, ma lo sai, amplificheggia, è un bel bello, è tipo l'SM8 della Icom, è uguale, così, molto bello, tutto cromato, nero, molto molto bello, mi costa 180 euro quest'anno, comprato nuovo, non ne ho trovato 60 fra, e quindi ho comprato quello lì, e l'ho messo al 140. Come, non hai trovato 60 usato? No, fra, usato no. Non ne ho trovato, come dico io non ne ho trovato. Uno ne vuole a 100 euro, l'altro a 100 di zero, tutti graffiati, tutti gaggati, non mi fido. No. Ne ho trovato uno a 80 euro, però non spediva. Dovevi andare a prendertelo. Allora, non ne ho trovato. No, mi sono girato le balle, l'ho comprato, la 12. Ho chiamato Media Globe e mi sono fatto mandare la 12. Nuovo. solo che mi hanno mandato il connettore clippato Kenwood, no, perché c'ha due uscite questo, io come Kenwood, e me l'ha mandato clippato a una parte e clippato all'altra in rotazione. E allora Gianfranco mi ha tagliato il clip e mi ha messo il connettore a 8, capito? Perché c'è il clip attaccato al microfono. Ma io stasera stavo guardando, nuovi ci sono, solo che costano un po'. E ne ho visto uno a 168, una cosa del genere, nuovo. Poi oggi girando erano tutti intorno oltre ai 200. Infatti non ho giubilato benissimo. Non ne ho preso per quello. Questo era 160, ma ho fatto 130. Spedito, io sono cliente, più mi hanno regalato il carretto, mi hanno dato il carretto in dotazione, però questo lo è superiore a 60, lo sai perché? Perché c'ha due uscite, puoi usare un microfono con due radio. Sì. Va bene. Ho capito, due attacchi di microfoni c'ha, no? Sì, due uscite c'ha, con lo stesso, con un microfono usi due radio. O fai I come I, o fai Kenwood e Kenwood, o fai I come Kenwood, capito? Puoi fare quello che ti piace, c'ha il coso, il tastino, sotto, posizione 1, posizione 2, e te lo segni anche, Kenwood, I come Kenwood, dipende. La modulazione già è buona, è un bel microfono, l'avevo già avuto. C'ha due uscite dal microfono dietro, capito? Però sono clippati a clip, entra la spinetta e poi esci col carretto normale che va a attaccare alla radio, no? Col connettore a 8, col connettore a 6, col connettore a 4. Chissà che vuoi fai? Ecco, sì. Fai un attimino che provo una cosa. KK di Rogero, sono qua fra. Hola. Questo com'è? Questo è più amplificato. Questo è l'MVP5. Va bene, sempre col President? Sì, sempre col President. Va meglio dell'altro, più amplificata questa è. La modulazione è sempre buona. Alla grande, Santiago Nova Radio 5 cifra. Io va bene. Più o meno arrivo come K, là. No? Vabbè, con K sono intorno agli 20 watt. Te ce me ne danno un poco di più. Vabbè, però sei lì, dai. Col K se metti a 50 watt arrivi di più. Questo sta arrivando a 9. Però sei lì, dai. Col K mi arrivi tra l'8 e il 9, invece qua se 9 è pieno. No, io va bene. Adesso qua ci faccio un'altra cosa, deixa vedere se la c'ha. Se l'ho proprio già trovato. Oh via! Ci metto un'altra cosa. Buonasera. Buonasera Mario. Buonasera Claudio, buonasera anche l'altro amico. Sono stato solo per salutarvi. Saluto veloce, stasera quiete, qui in casa, senza paracchino, via. Avanti pure, ma non riprendo. Un saluto a tutti. Come mai? Cosa stai facendo? Cucinando stai? No, ma là, stai buono, no? Sono davanti al computer che sto... sto guardando un po' su Facebook, mi sto divertendo con alcune cagate che ci sono, sono le solite. No, non è roba per me. Io odio Facebook, no, non mi interessa. Va bene, allora buon computer, quando vuoi siamo qua, sono in compagnia di Franco da Sorso e io in attesa che entri qualche d'un altro, vai Fra. Forse non sta uscendo bene questo, vero Fra? No, c'hai un innesco sotto. Ok, sì, va bene, forse sono le batterie un po' scariche. E il coso, l'Echo Master. No, l'Echo Master Plus. Batterie sono. Anche il mio, quando c'è la batteria scarica non esce. Devi giamballare la batteria. KK. No, questa va bene la modulazione. A quanto ce l'hai? Il 5, il più 5, il più 4. Allora, c'ho l'amplificazione adesso è a 10, la verità. Il tono ce l'ho a 3,5. Poi gli do tutto il tono. Ok, così è tutto fuori il tono. a 0 là. Mettilo a 1. Così è a 1 e sì, a 1. Allora mettilo a 2. Allora adesso lo metto così, a 2, aspetta eh. Ok, adesso è a 2, 2 preciso. Vedi a vedere com'è adesso. Anda meglio a 1, rimettilo a 1. Così è a 1, vedi a vedere. Però c'è un'amplificazione sempre a 10 eh. Ma 1 va meglio fra. È molto più chiara, molto più amplificata, tonalità più acuta, mi piace di più a 1. È troppo strozzata a 3 il tono, lascialo a 1. Sì. L'altra volta non mi ricordo che me l'avevano fatto mettere a 3. 3, 3 e mezzo, magari, vabbè, 3 e mezzo magari era perché toccandolo così, mettendolo a posto, si muove. Mentre il micchiglio del microfono è sempre a 10. No, va bene così. Per me, per come ti sto ascoltando io, con questa radio, la tonalità 1 è perfetta. Ehi, capo. No, va bene, va bene. Funziona bene. Vabbè, questo è nuovo il microfono. Ehi, non ci do io di più 5. Uno sul Galaxy, uno dove ce l'ho. E sul K, sull'altro 430. Senza l'attattore, cavo diretto, alimentazione diretta, vanno molto bene. Poi c'ho il Tane più 3, il Savelta e già ne ho un microfono. Campione idratti, sono tutti dentro l'armadio fra. È inutile, no. Già va bene così, quelli che ho sono questi e uso questi. Cappa. No, io non ne avevo, ce l'avevo prima io un MP5, poi l'avevo dato, l'avevo, e poi mi sono venduto, l'avevo violato. E allora sono andato a Pusano e me l'ho comprato uno nuovo. Sì. Anche io l'ho preso tutti e due nuovi a Fusare, infatti sono quelli con i pomelli grigi e neri, gli strumentini sono quelli arancione, dai, non è nero lo strumentino, la tastiera è grigio scuro, ultimo che hanno fatto, dai. Sì, è così. No, adesso sono belli, insomma. È vero che funziona abbastanza bene. Che cazzo fa? Qualità prezzo sono i microfoni che metti da qualsiasi parte, capito? O con l'adattatore, senza l'adattatore, varie connessioni, funzionano in ogni radio. E qualità prezzo va bene. Capo, sì. No, già, vabbè. Avevo idea di farne uno per il capo, però no, non mi interessa. Lascio l'MC60 che è molto migliore. No, va bene. Ma anche sul capo vanno bene quei microfoni. Io ce l'ho uno e funziona benissimo. Basta, devi regolare chiaramente la tonalità del microfono, però in linea di massima va bene. Non è un problema, e intanto una radio vale l'altra. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10, c'è nessuno in attesa di giudizio qua. Avanti, a chi tocca? No, non entra nessuno. C'era Giulio, ha fatto capolino stasera, evidentemente non ne ha voglia, non si è fatto sentire. Gianfranco stava saldando, stava facendo, Roberto non si è fatto sentire. Roberto è passato radio amatore, lo sai, sì, stamattina ha dato gli esami promosso. E chi? Roberto Quadratto. Ah, oh, ma aspetta, buono. Sì, stamattina alle 11:30, io ero in diretta con lui, ma a 10 minuti ha durato l'esame. Lui da casa sua ha collegato con il ministero, 5 su 5, abbiamo fatto 5 domande, 5 risposte esatte, è promosso. Adesso aspetta che domandino la patente e poi fa richiesta di nominativo e ne abbiamo un altro. Va bene così allora. Sì. Ok, e questo com'è il microfono? No, questo c'è l'alternata sotto, non mi piace, vai un patato in bocca. Ok, l'alternata sotto. C'è alternata in radio, non ne hai fra. Va, il numero 1 è il 60, ma al 60 è ancora più forte l'MB più 5. Sì. No, era l'MB più 4 l'ultimo che avevo attaccato, anche quello senza batteria. perché quello c'ha le batterie basse. No, no, questa va bene, che il 60 si sente. L'altra però rispetto a questa c'ha più acuti, più forte. Sì, l'MVP5. Quasi quasi glielo lascio. No, io l'avrei lasciato più 5 fra il presente. Cosa l'attacchi lui 60? Il 60 è un buon indietro di andare. E lì ti usi il più 5 che è fortissima, bella la radio. Eh sì, adesso lo collego e gli metto il più 5. E là e quell'altro lo attacco alla grande. Sì, 60, non si doppia, deve lavorare con il C80. L'MB più 5 vi ha contattato, lasci il tono a 1, la potenza a tutta manetta e la lascia attaccata al presidente, con quell'ignoretta è una cannonata. Sì, no, già l'ho lasciato come con tono a 1 e cosa 10, Michele a 10. È una bomba, è Sonia Radio, bella, forte. Fortissima, direi, va bene, ottimo, più forte del 60. Vabbè, attacca da un baracchino, Lo so, però, qualità prezzo, vedi, c'hai anche un segnale di 9 pieno, che io già lo so, non è che sono una zona, però ti sento alla grande, Santiago 9, Radio 5, figura di aumentare via Sasse. A Sassari arriverò qualcosettina di più di te perché è più vicino. Ma poi io non ti vedo, nonostante sia in una zona alta, ma non ti vedo. Come non ti vedevo prima, non ti vedo neanche adesso, perché io sono sempre nello stesso costone, capito? Sono salito un po' più in alto, ma sono sempre nello stesso costone. Così. Almeno ci stanno tutti e due i microfoni. Adesso l'ho messo tutto dall'altra parte. Gappa gappa, andavè, ma che ragione? Sono le 8 e le 4 subito. 9.43. Oi, per il Vella. Buonasera a tutti e due. Ciao Natali, buonasera, ben ascoltato. Mi altri 5 minuti alla Boisacco, passo un po' dall'altra parte a vedere un TG. Ciao Natalino! Ciao, arrivi splendidamente bene qua. Capo, già va bene, ti portate a farci sentire Natali. Magari sono io che arrivo un po' basso perché sono con 2,5 passi. Vabbè dai! Tu, vabbè, questo io adesso in questa radio c'ho uno smitter, quello a LED, che non è che... Però mi arrivi, diciamo, quando ho parlato mi arrivi quasi, sì, dai. Ho capito, dai. Non è giusto come l'altro, capito? L'altro smitter. Sì, lo so. Non è che sai se qualcuno sa già qualche 140, no? No, io no, a meno che non lo sa Claudio. No, non ne abbiamo buscato ancora, me ne serve uno. Relativo, niente, non so che posso dire, ho capito. Ia, sono qua che sono a fare una sigaretta. Hai sentito Natalino? Sto cercando 140. Lo so. L'avrei voluto accontentare, ma non glielo posso dare questo, la verità. Non glielo posso dare questo, è una cosa un po' affettiva, capito? E quindi non glielo posso dare. Non lo sono ripreso perché era di una persona che non c'è più e quindi me l'ha ridato il fratello e perciò non lo sono ripreso. Era il mio, gliel'avevo dato io, nuovo. Non ha giocato nulla, proprio niente, come me l'ha dato. L'unica cosa che ho fatto è ho cambiato la batteria a tampone perché era esaurita, non manteneva le memorie, capito? E allora veramente Fabrizio mi ha detto come fare, l'ho fatto ed è perfetta la radio, veramente nuova, l'avevo data io, nuova, ma l'avevo data un bel po' di anni fa, 6 anni fa, l'ha trattata un anno ed era sempre dentro l'armadio, è andato a accenderla, accendeva, perfetta, funzionante, valore 4,40, però mi ha detto no, lo mantiene le memorie, come lo accende se ne va 14.000, non c'è problema, è una cazzata, è una cazzata. Ho contattato a Fabrizio, mi ha detto come fare, gliel'ho cambiata e la radio è perfetta come il giorno che gliel'ho data. Ecco, vabbè, la batteria tampone, cos'era, saldata quella o normale? No, era saldata da una parte e dall'altra con le alette. Invece Fabrizio mi ha dato il portabatterie da saldare, adesso se si dovesse esaurire fra un po' di anni, cosa fai? Togli il coperchio, sfidi, non devi toccare più niente, né saldatore niente, sfidi la batteria come l'orologio e gliela metti dentro nuova. Sì. Meglio è, a me non è più facile da cambiare. E poi non è che la stai cambiando più quella. Da 10 anni deve entrare l'armadio, da un cane deve entrare l'armadio, cosa vuoi dire? Col cielo fa, non c'è un graffio, nuova. Non glielo posso dare, non lo posso accontentare io Natalino. Bisogna metterci alla caccia, a trovarne uno. Se no, ma cazzo quanti veniva, minchia. Quello che ho fatto prendere Eugenio lo stesso non era il mio. Nuovo, lo stesso, nuovo come questo. Non guardate manco così ti ammazzi. Poi ce ne aveva uno Massimiliano, l'ha venduto, un altro l'abbiamo venduto, noi siamo capitati i 140 in mano. Però Natalino non lo sapevo, lo stava cercando, me l'ha detto a poco, se no gli avrei già trovato da un bel di tempo. Ecco, bene. Ciao, io ti lascio adesso, 8:10 subito, e ve ne vado a mangiare. Ci sentiamo, ciao Natalino, ciao Claudio, buona carica quando va fatta anche voi. E poi raga. Sì raga, dai, stacco anche io, se ci siete ci sentiamo dopo. Ciao Fra, buona cena, buon tutto, un abbraccio, ciao anche a Natalino. Giulio sia all'ascolto, a chiunque fosse in ascolto, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Claudia, saluti a casa, sentiamo dopo. Ciao Claudia, ehi, senta il robo e poi vi faccio due chiacchiere, ciao ciao. Chi era? Chi era Ruggerito quel? Ehi. Ah, ciao Claudio, mi senti? Ehi, Claudio, io non riesco a capire le parole, comunque dai, ci sentiamo. Perché magari il segnale zero e Radio 1 proprio disturbata e non capisco bene le parole. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao Cla. Ciao, ciao. Claudia, ci sentiamo. Fra, non lo tocca più c'è il microfono, lascia attaccare Robles, gente che ha una bomba, ciao. Ehi, capo. Va bene, ciao anche a Claudio di Muros. Andiamo, 7. Siamo l'inverno, non c'è caldo, capisco d'estate, ma poi nessuno, allucinante, mi sono preso adesso l'antibiotico, l'altro, dopo 12 ore. No, ma stasera già c'era un po' di gente, dai. No, io non ho cenato, sto aspettando l'aria a cenare. Ho fatto sentito la portante, stavo entrando qua in stanza. Beh, ti sei informato poi il settore passato, no? Ha mandato un messaggio, l'ho visualizzato, non mi ha risposto. E allora non è passato, non ti preoccupare, siamo per avere il push. Vabbè, non è un problema acca. Io gliel'ho chiesto poi. Ma sono contento per Roberto, sono merita, bravo da. Sono merita. Io l'ho battezzato MX7, tu l'hai battezzato in novembre. Ma io con lui, io dalle 10 con lui. L'esame ce l'avevo alle 11:30, quindi. L'ho sentito tutto in diretta, non ce n'era problema. Abbiamo fatto una preparazione assieme, insomma, non problem, no, sono non contento, contentissimo, tanto perché si può sfruttare tutte le